Muzina. Muzina di tata, e di mwana, e di mpeve santu. Muzina di tata nzameo, muzina. Babota mabazala bakufa bala mukamba sekwa. Basumu ki baboya nzambe batala epamba tango ya bisengo. Kasi kombo ya nzambe zalia makasi boboto ya yawe ya nkembo. Makoli mbisa bango. Muzina. Muzina di tata, edi mwana, edi mpeve santu. Muzina di tata nzambeo. Ya muzina. Santo, cozinha de tata, sabe, oh, e a cozinha.